guarda no te miedo pa. E sigare somo un sal e non mi sposta e resta solta a guardare. No. Voglio ma che mura antica è più carna. Avido sai se può fa male e per sognare poi qualcosa arriverà. Tanto non passa nessuno e nessuno ci può guardare. Te voglio bene. Che stasera sai, non tengo c'è pazzia. Io sono se ne va. Ai di di di di di di di di di di di di di di di di di di di e per sognare poi qualcosa arriverà. Tanto non passa nessuno e nessuno ci può guardare. Te voglio bene. E che a stasera sai non tengo c'è di me pazzia. Io sono una sana base.